Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. In 3 anni gli 11 rimasero in 3. Come scherzavamo sempre. Io, Diana e Sara. Eravamo il numero perfetto. Mi sentivo padrone del mondo, o almeno del mio mondo. Avevo davvero la vita fra le mani. Ero dimagrito di 45 kg. Ero giovane, avevo un lavoro che mi piaceva e delle persone a cui piacevo io e quello che facevo. Sono Roberto Bandiera, lavoro alla reception di una palestra, ho 32 anni, vivo in provincia di Ferrara, io sono qui. L'altra sera in un locale di Milano, un posto dove se vuoi vai a prendere un aperitivo, un posto carino dove c'è un po' di gente, alcuni simpatici, altri e altra meno, però questo capita un po' dappertutto, ho incontrato un ragazzo che mi ha detto che ascolta il programma e abbiamo fatto 4 chiacchiere. Un ragazzo che poi ha la mia età, però ovviamente ci si considera ragazzi sempre quando lo si vede in faccia agli altri, l'età che sia. Comunque questo tizio mi ha detto: guarda, mi piacerebbe scrivere un racconto e ho anche in mente un episodio che sarebbe giusto, però ho paura di non essere capace di scriverla. Ecco, questa cosa l'ho detta a lui, la dico anche a voi, visto che ogni tanto qualcuno scrive e dice mi piacerebbe ma ho paura di non essere in grado. Questo non è il problema, la questione non è questa. La questione è semplicemente congelare un episodio della vostra vita che dica qualcosa di voi e spedirla. Voi siete qui, @radio24.it. Tanto noi in qualche modo ci mettiamo le mani, magari per accorciarla, magari per allungarlo o magari per renderla semplicemente più leggibile in onda. Quindi non è un concorso letterario, vale tutto, vale qualsiasi storia che sia realmente accaduta. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. Oggi, la storia che vi racconto oggi è una storia che solo in questa radio potrebbe essere raccontata. Vabbè, così è un po' grossa, me ne rendo conto. Però diciamo, se non ci fosse questa radio, se non ci fosse Radio 24, oggi bisognerebbe inventare almeno un programma che racconta storie come queste. Cioè, storie di caduta e rinascita imprenditoriale. Oggi è la storia di Roberto, che è un giovane uomo, non diciamo più ragazzo, è un giovane uomo di 32 anni che in età molto molto giovane, molto precocemente, attorno ai 20 mi pare, ha creato una sua società, ha fatto un'impresa insieme a 2 colleghi di studio che sono diventati colleghi di lavoro. Le cose andavano molto bene all'inizio, poi sono andate un po' peggio e adesso lui lentamente si sta riprendendo. La puntata di oggi è dedicata a quello, è dedicata alla sua storia ed è dedicata a tutti voi. 800240024 per telefonare in diretta oppure 349-238-6666. Se avete creato una piccola impresa, se avete creato una società, avete avuto una buona esperienza in quel campo, poi le cose sono andate male, sono andate storte, ma siete stati più forti di quella roba e siete andati avanti, avete ricreato qualcosa di nuovo, oggi potete raccontarlo. 800240024. Vi faccio un esempio, ho già scritto sul profilo Facebook del programma, che è Matteo Caccia, io sono qui, Dina. Io e mio marito siamo stati imprenditori con una fantastica storia di lavoro alle spalle, una compagnia aerea con 50 dipendenti. Forse ne avevamo già parlato di lei, mi pare. Credo che fosse una compagnia aerea, Dina, se sei all'ascolto correggimi se sbaglio, che faceva la spola tra il continente e l'isola d'Elba, però forse ricordo male. Compagnia aerea con 50 dipendenti, alla quale abbiamo dedicato anni e anni con entusiasmo e passione. È andata male e la tristezza è stata infinita e forse la ferita non si rimarginerà più. Sono seguiti anni bui di enormi rinunce e incertezza. Io, donna e mamma, ho tenuto duro e mi sono riciclata nel settore. Storie come queste, caduti e rimessi in piedi. 800240024 oppure 349-238-6666. Qualcuno prima mi ha scritto sul profilo Facebook: tira fuori quella puntata di Io sono qui dello scorso anno in cui aveva chiamato un imprenditore in Porsche. La storia era semplice, che era un tizio che era fallito, aveva fatto bancarotta fraudolenta e poteva scegliere se tenersi i soldi o andare in carcere. Era andato in carcere, era uscito con il condono per cui era riuscito a rimanere in carcere un paio d'anni, e quando era venuto fuori c'aveva i soldi, e la cosa che aveva fatto scalpore agli ascoltatori un po' anche a me era che mi stava chiamando da una Porsche. Non storie come quelle, storie di persone che hanno fatto un'impresa che gli è andata male e si sono rialzate. Questa è la storia di Roberto. Estate di fine superiori, 19 anni, maturando. La felicità di non avere più a che fare con libri, insegnanti, levatacci alle 6 per prendere quella corriera che tutte le mattine da casa mi portava a Ferrara, alla scuola d'arte che tanto avevo voluto frequentare, nonostante il parere negativo dei miei. I giorni di vacanza a tempo indeterminato erano iniziati e ancora non sapevo bene cosa avrei voluto fare nella vita. Sapevo che avrei voluto divertirmi, uscire, magari perdere qualche chilo di quei miei imponderabili 115. Volevo pensare al mare e al sole caldo sulla spiaggia. Un giorno di queste vacanze mi imbatto in una lettera a mio nome appoggiata sulla scrivania dei miei genitori. Il mittente era un certo ente di formazione. L'oggetto: corso di lavorazione artistica del vetro, specifica nelle vetrate artistiche, con scopo finale apertura attività commerciale artigiana. Non so bene cosa sia successo in me mentre scorrevano queste prime parole. Ricordo però di aver immaginato subito il tempo che ora sto vivendo, a distanza di 10 anni. Era come se immaginassi il mio futuro. Decisi di iscrivermi e iniziai il corso. Praticamente il corso era tutto incentrato sulla lavorazione artistica delle vetrate, quindi proprio creare, progettare vetrate artistiche per chiese oppure comunque per case private, quindi imparare a tagliare, a cuocere e quindi creare proprio un oggetto che una volta cotto aveva un uso comune all'interno delle case. Il corso inizialmente era una palla non da poco. Come creare un'azienda, la gestione di un'azienda, il commerciale, fatture, cose amministrative. Tutti noi 11 corsisti fremevamo dalla voglia di attaccare il cuore del corso. E tutti ci domandavamo, sì, ma quando iniziamo a tenere in mano e a lavorare il vetro? Mi piaceva un sacco l'idea di lavorare un materiale che tutti hanno paura di tenere tra le mani. Un materiale che può essere molto pericoloso. Ancora sorrido al pensiero dei nostri tutor che spiegavano, e io che già abbozzavo su carta i primi progetti, idee strampalate di qualcosa che ancora non sapevo neanche maneggiare. I mesi scorrevano fino a quando finalmente abbiamo avuto la possibilità di iniziare a lavorare in uno spazio tutto nostro. Una vecchia scuola elementare in disuso, un'intera, vecchia, macabra scuola elementare tutta solo per noi, 11 ragazzi. Era un sogno. Le tecniche apprese durante il corso erano due: come creare una vetrata artistica e la vetrofusione. La prima più antica, la seconda più innovativa. Eravamo tutti affascinati da questa seconda. Tagliare il vetro colorato, assemblarlo in più pezzi e fonderlo. E poi attendere con ansia quelle 12, 14, 18 ore di fusione nel forno, per poter poi contemplare la propria creazione plasmata, fatta e finita. Col senno di poi, ripensandoci, erano delle vere e proprie schifezze. Ma quanta soddisfazione in quei giorni. Il tempo passava, il corso finì e quegli 11 coraggiosi crearono un'impresa, una piccola società. In 3 anni gli 11 rimasero 3, come scherzavamo sempre, io, Diana e Sara. Eravamo il numero perfetto e tutto sembrava legarci. Credevamo davvero in ciò che stavamo facendo. Ricordo ancora un mega cartellone di 6 metri per 3 appeso nel nostro ufficio, dove i mesi e i giorni erano scanditi da mercatini domenicali, interi weekend in giro per l'Italia a vendere le nostre cose, appuntamenti, riunioni, mostre in Italia e all'estero. Mi sentivo padrone del mondo, o almeno del mio mondo. Avevo davvero la vita fra le mani. Ero dimagrito di 45 kg ed ero giovane. Avevo un lavoro che mi piaceva e delle persone a cui piacevo io e quello che facevo. Bring on the food to the house. Bumpy has to hide when it has to break wind. That's why they're angry men. Non tutti a 20 anni hanno un'attività in proprio. Beh, certo, non eravamo ricchi. Anzi, se non ci fossero stati i nostri genitori, forse non saremmo durati quei 6 anni che siamo durati. Tutto però era meraviglioso. La famosa scuola elementare diventò la mia casa. Dormivamo lì, mangiavamo lì, lavoravamo lì. Eravamo liberi di uscire la sera, andare e tornare senza orari. Quella scuola ha vissuto un sacco di cose insieme a me. E io insieme a lei. Il mio primo lavoro, i miei primi amori, i primi baci, la mia prima volta. La mia vita era al massimo. Mi sentivo importante. Ero diventato ciò che avevo sognato il giorno in cui avevo aperto quella lettera arrivata a casa. Quei frammenti di futuro erano diventati un bel pezzo di presente. Tutto scorreva sereno, tra corsi di formazione, riconoscimenti internazionali, collaborazioni con artisti importanti, mostre all'estero. Mi sentivo grande, avevo a che fare con grandi. Era tutto così strano e maledettamente bello essere ragazzini in mezzo a un mondo di grandi senza avere paura. I miei disegni plasmati nel vetro giravano il mondo, erano sui giornali, menzionati in articoli di settore. Ero Roberto, quel Roberto magro che specchiandosi quando era un ragazzino agognavo di diventare. Ero Roberto che volevo vedere riflesso allo specchio un giorno. Tutto sembrava splendido e infrangibile, fino al momento in cui prendemmo la decisione che in realtà non volevamo vedere e ritardavamo sempre di più. Chiudere la nostra attività. Comunque il mercato di una cosa così particolare aveva una concorrenza talmente spietata con ciò che è la lavorazione di Venezia, che comunque erano costi talmente diversi e ovviamente abbiamo dovuto fare i conti con la dura realtà. Chiudiamo i battenti in un paio di mesi, coprimmo tutte le spese e non lasciammo nemmeno un debito. Quante lacrime versai il giorno in cui chiusi il portone di quella scuola, di quella ormai ex casa. Lì lasciavo un pezzo dei miei ricordi, chiusi in un luogo in cui non sarei più entrato. E lì mi rimarranno. Rilevai gli strumenti principali che mi servivano per la lavorazione. E fortunatamente avevo un magazzino dove poter ricreare il mio piccolo laboratorio artigianale. In 4 giorni avevo già organizzato il mio nuovo spazio, un luogo nuovo dove lavorare. Oggi quello con cui campo è un altro lavoro. La notte però continuo a creare, disegnare, fondere. Ho posizionato molte cose nella stessa posizione in cui erano in quella scuola. Uso ancora lo stesso tagliavetro a mano, sbeccato, ormai senza più punta diamantata. Sì, lo so, probabilmente sto rivivendo il passato. Sto facendo di tutto per non dimenticare ciò che ero e che ancora oggi vorrei essere. L'esperienza da imprenditore mi ha lasciato dei segni indelebili, che mi fanno sentire un direttore anche se non ho un lavoro mio, che mi fanno fare anche ciò che non mi compete perché voglio sempre che le cose siano fatte bene e a modo. La notte tornando a casa mi accorgo di avere l'esigenza di tagliare il vetro o di disegnare, magari organizzare un mercatino da qualche parte, oppure creare un nuovo piatto per uno chef che vuole pubblicare sul suo libro di cucina. La radio accesa, magari un bicchiere di vino, una sigaretta, e ritorno padrone del mondo, ritorno quel ventenne che voleva spaccare tutto, solo nel corpo di un 32enne. Voglio morire giovane, prima che i tempi cadano, prima che i sogni partano per non tornare. .0024 0024 per telefonare in diretta oppure 349 238 6666 per gli sms. Se avete avuto una storia legata a un'impresa, una vostra attività, una società, qualsiasi cosa che avete aperto voi, che avete creato, che avete fondato, insomma, avevate un'idea, l'avete messa in pratica, le cose sono partite e poi sono andate un po' storte, non vi siete fatti abbattere e siete ancora lì, magari con una idea nuova, magari con qualcos'altro per le mani. 800240024. Ero un rappresentante di materiale edile. Il primo direttore d'azienda che mi diede un mandato mi disse: secondo me non riuscirai, perché per vendere bisogna essere figli di puttana, tu non lo sei. Dopo 3 anni di fallimenti ho abbandonato e ora lavoro in una casa di riposo. Quel tipo di lavoro lì non lo posso fare. Ciao Silvio. Beh, Silvio, più che essere caduto, tu hai proprio cambiato strada, mi sembra di capire. Dario e Fernanda, noi per ora siamo solo caduti. Spero un giorno di poter dire che ci siamo rialzati. Guarda, credo che, insomma, siete in buona compagnia. 800240024. Sentiamo però quello che ha scritto questo racconto e che quindi ha vissuto in prima persona questa questione. Pronto, Roberto? Ciao Matteo. Ciao, come stai? Bene, grazie. Dove ti trovi adesso, Roberto? Adesso a casa. Non sei al lavoro? No, ho preso un'ora di permesso. Apposta, ma il permesso è pagato o è semplicemente... Direi... Come funziona? No, te lo chiedo perché non... Sì, non lo sai neanche tu, Roberto, in realtà. Hai preso quest'ora e adesso hai paura che questi 10 euro non ti arrivino, o quanti sono, guarda, insomma. In realtà volevo solo sentire il mio racconto letto. Ok, perfetto. Bene. Senti, raccontami qualcosa di più. Innanzitutto, la cosa che vorrei capire è, quei 45 kg, come li hai persi? E in quanto tempo? Allora, inizialmente ho perso 30 kg in 3 mesi. Ma perché non mangiavi o perché lavoravi troppo? No, in realtà entrambi, lavorando tanto, e poi in più avevo iniziato, insomma, a vedermi un po' allo specchio, vivere quello che vivevo, e quindi ho detto va bene. E basta, avevi 20 anni anche, giusto? Sì. Ok. Sì. E gli altri 15? Gli altri 15 poi pian piano, con una sana alimentazione. Ok, quindi adesso sei regolare, sei sui tuoi 70 qualcosa. Beh, anche un po' di più, adesso li ho ripresi. Bravo. Senti, Diana e Sara, che fine hanno fatto invece? Diana e Sara, Diana adesso lavora in un campo di pulizie, mentre invece Sara fa la segretaria in un'azienda. Senti, ma invece il tuo piccolo laboratorio che hai è in un garage, no? In un magazzino? Sì. Tu ci vai tutti i giorni, tutte le sere quando finisci ci passi, oppure solo quando ti viene in mente qualcosa? Oppure una cosa, una volta ho parlato, guarda, con un pittore, vabbè, un pittore è un artista, però di fatto c'è qualcosa di artistico anche in quello che fai tu. E lui mi diceva, io comunque tutti i giorni sto in studio per un motivo molto semplice, perché quando l'ispirazione arriva tu devi essere lì e devi essere pronto a prenderla. Questa cosa vale anche per il lavoro come il tuo, oppure c'entra qualcos'altro? Sì, no, assolutamente, anche perché per mia fortuna il magazzino è proprio il posto in cui parcheggio la macchina tutte le sere, quindi ogni sera vedo il mio laboratorio. Senti, e cosa stai lavorando adesso? Ora mi sto specializzando in ritratti di animali con la polvere di vetro. Cioè? Cioè macino gli scarti di vetro, perché riciclo anche gli scarti, li macino in polvere e poi con un setaccino cerco di ottenere un effetto realistico di animali in piano, ovviamente, non in tridimensionale. Ma scusami, ma quindi tu hai un forno anche? Hai un piccolo forno. A quanto fonde il vetro? Sui 900 gradi. E tu hai un forno che raggiunge i 900 gradi? Sì. Senti, invece mi faceva ridere, nel senso che mi faceva sorridere, perdonami, il fatto che il principale concorrente è che sono Murano, cioè Venezia. Ovviamente. Cioè, nel senso che quella roba lì viene venduta ovunque nel mondo, no? Basta un'etichetta che arriva da lì ed è tutto più facile, immagino. Sì, perché comunque quando una persona vede una cosa di vetro anche a un mercatino, la prima cosa che dice è, ah ma guarda, è Murano, e quindi è semplice. Fanno subito questo raffronto. Senti, invece un'altra cosa che mi ha colpito nel tuo racconto è che tu dici, era bellissima quella sensazione di avere 20 anni ed essere dei ragazzini in un mondo di grandi e non avere paura. È vero. Adesso invece hai qualche tipo di paura? Beh, sì, le cose sono cambiate ovviamente, eri più irresponsabile, quindi non ti rendevi conto di ciò che comunque stavi vivendo e che avevi attorno. Adesso le cose sono cambiate, insomma. Vedi tutto quello che gira attorno e sei più consapevole. Ma quindi, perdonami, e poi ti saluto, cosa pensi di fare? Pensi di mantenerlo in forma di hobby, oppure hai un progetto, hai una linea, immagini di riuscire a farlo diventare, a farlo tornare un mestiere? Io spero proprio che prima o poi il sogno ritorni in realtà. Roberta, allora ti faccio i migliori in bocca al lupo per tutto questo. Grazie. E ti faccio tornare al lavoro, perché sennò sto ora di permesso me la sento sulle spalle. Grazie ancora e buona giornata. Grazie. Ciao, grazie Roberto. Voi siete qui. Le illustrazioni di Voi siete qui alla pagina di Radio 24, al sito di Radio 24, alla pagina di Voi siete qui. Quella di oggi è di Alessandro Nava e racconta a modo suo la storia di Roberto. C'è appunto un bicchiere di vino, ci sono delle sigarette abbandonate lì probabilmente nella notte durante il periodo in cui Roberto si mette a lavorare il vetro. Ci sono dei piedi nudi, probabilmente, perché se lo immagini lavorare a piedi nudi. E poi ci sono delle striature di colore che nella mia scarsa fantasia probabilmente rappresentano i diversi colori del vetro lavorato. 349-238-6666 oppure 800-24-0024, visto che mia mamma ieri mi accusava di dire 24 con una T sola. Ho anch'io un'attività da 6 anni, lavoro dalla mattina alla sera, i clienti tanti complimenti, ma le spese di gestione troppo alte. In Italia gli sforzi dei giovani, le loro idee le affondano subito con le tasse. Lavoro, non riesco neanche ad arrivare a 800 euro al mese, è un'ingiustizia, vale da PT, potenza, PT. Pistoia. Pistoia. Perché? Bastava che non lo dicessi. Bastava che non lo dicessi. Più o meno è capitato anche a me, con un panificio aperto in un posto sbagliato. Dopo 6 anni mi sono deciso e mi sono trasferito con ulteriori debiti alle spalle. Beh, che dire, quest'anno sono 10 anni che ho un'attività, ho 32 anni, sono carico di idee e sono qui. Nick di Bassano, bravo. Almeno poi ha scritto Bassano, non ha scritto tipo BS, che io cominciavo a dire Brescia. 80 Pistoia, PT è Pistoia, come si faceva a dire Potenza? Potenza è PZ, ovviamente. 800240024 349-238-6666. Andiamo, finalmente sentiamo qualcuno anche che chiama al telefono. Maurice, giusto? Pronto Maurice? Sì, giusto. Ciao Matteo. Ma Maurice è il tuo vero nome o un nome d'arte? Accorciato. Ok. Su per giù. Ciao Matteo. Nel senso, che scusa, aspetta un secondo Maurice. Nel senso, vai. Che il tuo nome sarebbe Maurizio. Vai. E quindi accorciato Maurice? Dico, ma scusami, Mauri sarebbe accorciato, Maurice è un'altra cosa. Va bene, dai, Mauri, raccontami, sì. Tu eri imprenditore radiofonico. Sì, Matteo, io ho iniziato nei momenti in cui c'era le cosiddette radio libere. Quindi anni 76, 7? 74, 4. 74, 75, ho iniziato con tutto quello che comportava le radio libere del 74, 75, i sequestri... Cioè, anche i sequestri ti sei fatto? Sì? Ma io mi sono fatto la sentenza della Corte Costituzionale, i sequestri, i pignoramenti, la SIAE. Come si chiamava la radio, Maurice? Radio Maurice? No, lascia perdere, no, Radio Maurice, sì, io, la solita radio locale, grossa, più grossa, una cosa e l'altra, e finché una mattina mi sono svegliato con la mia grande antenna stesa per terra. Te l'avevano abbattuta. Sai cosa usava a quei no, tempi? No, cosa usava? Vabbè, a quei tempi molto spesso c'era un problema di interferenza, c'era un problema che gli impianti sparivano, c'era un problema che... insomma... cioè, sabotaggio, stai dicendo? Abbiamo vissuto delle cose piuttosto burrascose, ma insomma, sono dettagli, direi, ormai. Beh, no? Insomma, però mica tanto, perché se chiudi tu è un conto, se ti obbligano a chiudere è un altro. Beh, io... vorrei ricordare la mia disperazione totale, l'antenna stesa, la SIAE che mi sequestrava, gli uffici, le varie cose, insomma la disperazione sì, sì. Totale. Quanti anni avevi, Maurice? 26, 27. E cos'è successo dopo invece? Adesso cosa... È successo che proprio la sera dell'antenna stesa io sono andato a cena con un magnifico genovese del settore radiofonico, detto anche l'innominabile, il quale durante la cena cominciamo a parlare di radio, lui mi spiegò che io ero tutto meno che l'editore, quello che io volevo fare, io ero un tecnico, mi fece capire che dovevo fare il tecnico, dovevo smettere di fare l'editore era un'altra cosa. E quindi ora cosa fai? Ho un'azienda tecnologica nel settore telecomunicazioni, gli anni sono trascorsi, sono 65. Complimenti, e come vanno le cose? Bene, bene, perché si parla di crisi, di grosse difficoltà, ma io sono uno di quelli che preferisce camminare a gambe lunghe, non guardarmi indietro e andare avanti, vanno più che bene. E io ti ringrazio allora Maurice, grazie ancora, buona giornata. Ciao, grazie. Voi siete qui, @radio24.it. Ciao Matteo, io posso dire che nella mia storia ho fortunatamente provato solo l'ascesa, anche se alla caduta ci sono stato vicino parecchie volte, soprattutto all'inizio. Faccio sculture di insetti per i musei scientifici di tutto il mondo. È un'avventura bellissima nel bene e nel male. Ciao Lorenzo. Lorenzo, ti prego, scrivimi un racconto su quello che fai. Assolutamente. Voi siete qui, @radio24.it. A proposito di racconti di ascesa, di caduta e di ascesa e di gente che cade e si rialza, un paio d'anni fa Mario Calabresi ha scritto un libro molto bello che contiene racconti di questo tipo, si intitola La fortuna non esiste, storie di uomini e donne che hanno avuto il coraggio di rialzarsi. È stato in giro per 2 anni negli Stati Uniti e ha raccolto storie proprio di quel tipo lì, insomma quella crisi macroscopica che ha messo in piedi quel paese, ha messo in ginocchio quel paese come poi tutti gli altri, e racconta storie di persone che piano piano si sono riprese. In questo caso, in questo piccolo brano, lui racconta addirittura la storia non di una persona ma di una città che si è inginocchiata e si è rimessa in piedi. Se ci si chiede qual è il fondo, qual è il punto più basso che si può toccare, e si ha proprio voglia di guardare in faccia la risposta, basta atterrare all'aeroporto internazionale di Pittsburgh, affittare una macchina, superare i ponti che portano in città e guidare verso est, ancora per un quarto d'ora. Ecco, immaginate una città a cui è stata tolta l'anima, cui hanno portato via tutto quello che serve a definire l'esistenza di una comunità. Il lavoro, le scuole, i bar, i ristoranti, gli alberghi, i cinema, la piscina e gli abitanti. Perché le città possono anche morire, spegnersi lentamente, vedere scorrere via la vita, crollare isolato dopo isolato, fino a trasformarsi in fantasmi. L'esempio perfetto di declino, il caso più eclatante che si possa trovare oggi in America, si chiama Braddock, una dozzina di chilometri dal centro di Pittsburgh, in quella parte di Pennsylvania ribattezzata Rust Belt, la zona della ruggine. Braddock ancora negli anni 50 aveva 20.000 abitanti, attirava lavoratori, commerci, visitatori. Le foto la mostrano affollata, caotica. Ora, secondo l'ultimo censimento, di abitanti ne ha meno di 3.000, 2.912 per l'esattezza. È tutto diroccato, abbandonato. Dove c'erano i negozi si vedono solo assi inchiodati ai cartelli con la scritta in vendita. I pochi ancora aperti hanno una rete metallica davanti alle vetrine per impedire che vengano sfondate. Più di un terzo dei cittadini rimasti vive sotto la soglia della povertà. La maggior parte sono disoccupati e il valore medio delle case rimaste in piedi è di $6.200. Questa città avrebbe dovuto essere dichiarata morta e cancellata dalle cartine. Avremmo dovuto dimenticarcene, se non fosse che il suo scheletro è troppo ingombrante. E allora hanno provato a eliminarla in nome del rilancio, del progresso di tutta l'area. Ma il destino, gli speculatori, gli urbanisti e l'inarrestabile declino hanno trovato due ostacoli. Due strane figure, capaci di rimettere in discussione tutto. Due persone che ragionano in modo poco convenzionale e non hanno rispettato le regole e hanno avuto una visione. Si sono convinti che anche le città possono rinascere. Si chiamano Victoria Vargo e John Fetterman. Sono la bibliotecaria e il sindaco. La bibliotecaria e il sindaco, ognuno per conto suo e percorrendo una strada diversa, sono arrivati alle stesse certezze: che non esista una situazione peggiore di quella che hanno avuto in sorte di vivere e che dall'ultimo gradino si possa solo risalire. Love will not betray you, dismay or enslave you, it will set you free. Be more like the man you were made to be. There is a design and alignment to cry of my heart to see the beauty of love as it was made. E a proposito di idee imprenditoriali, mi è arrivata una mail da Deda, che ha avuto questa idea. Lei scrive racconti, evidentemente li ha mandati anche a Voi Siete Qui, però dice: la gente ha poco tempo, legge sempre meno e soprattutto non perde tempo a leggere scrittori non famosi come me. E allora cosa ho fatto? Ho fatto leggere uno dei miei a un professionista, così anche i pigri non avranno scuse. Cliccate sul link e andate a ascoltarvi il mio racconto. Guarda, giusto per l'idea, ve lo carico sul profilo Facebook, il link di Deda. Poi scegliete voi se ascoltarvelo tutto oppure no. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi, che sono i soliti: sono Paolino Corleoni, sono Margherita Ina, Tiziano Bonini, ma grazie anche a Stefano D'Andrea e a Federico Bernocchi. C'è un podcast per ascoltare questo programma, andate sul sito di Radio 24, cliccate su podcast e trovate Voi Siete Qui, oppure attraverso iTunes cercate Voi Siete Qui e vi abbonate gratuitamente di 5 puntate in 5 puntate. Magari carichiamo anche quello sul profilo Facebook. La storia di oggi era la storia di Roberto, parlava di cadere e rialzare. Quella di domani è la storia di Simone e parla di vita da ufficio. Comincio a sentirmi come un tredicenne all'esame di terza media. È una sensazione strana, decisamente lontana, che non pensavo di ricordarmi nemmeno più. È come quando sei l'unico a preoccuparti, sei l'unico ad avere paura, mentre tutti quelli attorno a te sanno che non stai correndo alcun pericolo. Ma tu non lo sai e hai paura.